Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore con un motore di ricerca. Sapete che amo lì trattare gli stessi temi che tratto per il mio giornale, il Sole 24 Ore, vale a dire i temi di criminalità organizzata. E in qualche modo a questo tema ci ricolleghiamo, perché alcuni giorni fa, l'avrete letto più o meno su tutti i giornali e anche le televisioni ne hanno trattato, c'è stata una notizia che è partita dal Corriere del Mezzogiorno, poi ha interessato anche la stampa di Torino con questa notizia: figlia del boss respinta dalla scuola, non c'è più posto. Questo accade a Bari, quindi siamo in Puglia, dove una famiglia di un certo tipo, l'avrete capito, se parliamo di una figlia del boss vuol dire comunque una famiglia legata alla criminalità organizzata, si trasferisce dall'Emilia Romagna, dove viveva in precedenza, a Bari, e lì comincia una spiacevole catena di incomprensioni, reazioni successive che sembrerebbero aver portato le scuole baresi ad escludere questa ragazza dall'iscrizione scolastica. La mamma di questa ragazza ha anche aggredito i presidi degli istituti in maniera molto molto pesante e ha incolpato tanto i presidi delle scuole alle quali dice di essersi rivolta, quanto il provveditore agli studi, insomma, di non aver assecondato la sua richiesta. Noi, per capirne di più, intanto abbiamo chiamato il provveditore agli studi di Bari, il dottor Giovanni La Coppola. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, caro dottor La Coppola, cerchiamo di fare un po' di chiarezza in questa ingarbugliata e complicata vicenda. Innanzitutto partiamo da un dato di fatto che io non sono riuscito a capire leggendo i giornali. Vale a dire, la mamma di questa ragazza ha davvero iscritto o meno la figlia presso uno o più istituti scolastici baresi? Allora, guardi, meglio di me può rispondere l'ispettore che è stato nominato dal direttore generale per la Puglia. Io le posso dire come sono avvenuti i fatti. Prego. Da quando sono provveditore agli studi, dall'anno scorso, io ho inserito persino il mio cellulare sul sito dell'ufficio, per cui ricevo telefonate anche a mezzanotte dagli utenti. Immagini un po' che una precaria un giorno di domenica mi ha chiamato dal Tibet e mi ha fatto ascoltare le campane, ci ho rimesso 40 euro di telefonate. Per cui ricevo da una media di 50-60 famiglie al giorno per il cosiddetto contenzioso che esiste nelle nostre scuole, nelle scuole della provincia di Bari. Lei tenga conto che la provincia di Bari, se non vado errato, è la quarta dopo Milano, Napoli e Roma come capienza. Eh beh, certamente, essendo una città metropolitana, sicuramente. Quindi mi pare di capire dalle sue parole che in buona sostanza, se avesse davvero voluto iscrivere la figlia, beh, avrebbe trovato il suo numero di cellulare persino acceso durante la notte, magari non voleva farle sentire le campane, semplicemente uno scampanellio. Però stavo dicendo, la signora mi ha preannunciato la sua venuta in ufficio chiamandomi dal cellulare, cioè telefonandomi al mio cellulare. Benissimo. E che cosa le ha detto? L'ho immediatamente ascoltata nella stessa giornata, uso fare così, per cui non ho chiesto alla signora se aveva o non aveva iscritto in qualche scuola. Mi ha raccontato in breve la sua storia, mi ha detto che era andata, essendo lei che abita in via Napoli, e era andata a parlare con i due capi di istituto delle scuole che ci sono in via Napoli. Ecco, ma i due capi di istituto, cerchiamo di capire un'altra cosa. All'accusa della signora di non aver voluto iscrivere la figlia, in realtà hanno risposto attraverso i giornali in maniera esattamente contraria. L'uno dicendo non mi interessano i cognomi dei miei studenti, l'altro dicendo ma come, perché non avremmo dovuto iscriverlo. Quindi mi pare che potrebbe esserci o un'incomprensione o qualcuno che vuole sollevare un caso per niente. Lei come la vede? Allora guardi, io l'anno scorso con una delle due scuole, la Carducci, ho affrontato il problema perché i giornali mi parlavano un bel dì di scuole ghetto presso la scuola media Carducci di Bari. Io immediatamente l'anno scorso ho fatto un sopralluogo e mi sono reso conto che non vi erano scuole ghetto, cioè l'attuale preside, la professoressa Ferrara, aveva costituito tutte le classi inserendo alunni di tutti i ceti. Avendo io l'anno scorso visitata questa scuola e mi sono reso conto che addirittura all'inizio di quest'anno, grazie all'assessore Losito del comune di Bari, siamo riusciti a dare un'altra aula per 38 alunni che non riuscivano. Ecco, io la fermo un secondo. La fermo un secondo perché lei ha detto abbiamo dato un'altra aula, 38 bambini, eccetera, eccetera. Allora, quindi vuol dire che la motivazione che riporta anche la stampa di Torino, segnatamente a pagina 16 del 14 ottobre, lo dico perché chi volesse cercarlo può farlo, cioè la motivazione che non ci sarebbe più posto all'interno di quelle scuole è una motivazione... Alla Carducci, ecco. Alla scuola media Carducci. Ecco, quindi quello è vero che non c'è più posto... È vero, è vero. Per cui io immediatamente ho indirizzato la signora a iscrivere la sua figliola alla scuola media Pascoli, anche se dista una cinquantina di metri più lontana dalla propria abitazione. Ok, allora io adesso vorrei capire dove ha chiesto il domicilio, sì. Perché mi risulta che la signora non è ancora residente a Bari. Ho capito una cosa. Allora, a parte che 50 metri fanno solo che bene alla salute, quindi camminare 50 metri in più per una ragazzina di 11 anni, perché stiamo parlando di una bimba di 11 anni, non è sicuramente un problema. Vorrei capire questo, ma oggi questa ragazza, ovviamente non diciamo né il nome né il cognome, ci mancherebbe altro, anche per tutelare la privacy, per carità di Dio, anche perché non è che le colpe eventuali dei genitori debbano ricadere sui figli, ci mancherebbe. Allora, questa bambina oggi è iscritta, cioè frequenta la scuola Bari o no? Allora, io credo che... oggi non frequenti ancora, perché l'ispettore oggi concludeva l'ispezione. Presumo che lunedì debba iniziare a frequentare una delle due scuole. Oggi, quindi oggi dovrebbe oggi iniziare a frequentare. Ho capito, ho capito. Gli uffici sono chiusi il sabato, presumo che lunedì debba risolversi la questione. Benissimo, quindi oggi dovrebbe risolversi la questione, quindi non potevamo cadere più a fagiolo. Io voglio precisare una cosa. Quello che vuole. Innanzitutto non sono a conoscenza che la figliuola sia figlia di un boss, perché per me non c'è nessuna differenza, tant'è vero che sul mio sito c'è una circolare che ho indirizzato sin dall'anno scorso per i ragazzi difficili. I ragazzi difficili vanno trattati nella stessa maniera, sì, sì, dei ragazzi figli di ceti borghesi, sì, di ceti che stanno bene finanziariamente. Ma questo nessuno lo mette in dubbio, noi stiamo parlando comunque infatti sempre di una, anche perché non conosciamo il cognome di questa famiglia, stiamo parlando di una presunzione di una famiglia camorristica, perché verrebbe dal Rione Libertà il padre, quindi sarebbe un boss della camorra, però ovviamente il tutto è per il momento presunto. Ma vorrei cercare di capire una cosa. La seconda cosa che vorrei precisare, mi scusi. Prego. Se l'ho indirizzata la famiglia a iscrivere alla Pascoli, sì, perché chi meglio di me non conosce la situazione della Pascoli, perché io ho autorizzato alla Pascoli la costituzione delle prime classi. Oh, quindi lì il posto ci sarebbe, insomma. Ci sarebbe. Perfetto. Anche perché col preside della Pascoli abbiamo avuto discussioni noi dall'inizio dell'anno scolastico che non ha voluto iscrivere oltre questa ragazza ben 1, 2, 3, 4 e 5 alunni. Quindi non è un caso che le aule sono piene. Quindi non è così. La Coppola, un secondo. La Coppola, alunni inferiori che frequentano rispetto alla Carducci e a tante altre scuole medie del territorio. La Coppola, la fermo un secondo, altrimenti poi mi ricordo un politico che nessuno riesce mai a interrompere quando si presenta in TV. Allora, le chiedo questo, quindi ci sono altri casi, diciamo così, che sono spinti dalla Pascoli, sì. Questo qui non è un bene, insomma, diciamocelo. Bravo. Ecco, quindi ovviamente lei mi pare di capire che sta intervenendo energicamente su queste situazioni. Sì. Bene. E devo intervenire energicamente anche perché ho una riservata del direttore generale che mi dice di risolvere subito e bene tutti i casi degli alunni non iscritti ancora. Benissimo, mi sembra doveroso. Allora ringrazio per la sua estrema chiarezza e forza il dottor Giovanni La Coppola, che è provveditore agli studi di Bari. Ringrazio in regia Peter Bescapè e in studio Antonella Migliaccio. E Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.